che se nasce non conosce inverno, ed io ci credo. Ma credo anche a questo caos che diventa inferno, perché lo vedo. Ormai è un po' che guardo con freddezza e con distanza informazione e lo show che fa la stessa danza. E quando è sera non ci riesco, ma vorrei uscire da questo quadro. E aspetto il giorno che sciolga i pensieri e la musica, che è sempre un po' più leggera e ad un passo da me. Strade quello che ho sentito dire, ma non me ne vado, perché un azzurro fiume scende da quelle colline e non è un caso che dentro a questa noia la città è assorta. Lo stato come piombo si sopporta, i ragni fanno i nidi sulle tue rovine come su un ramo. Fortuna c'è lei